Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Il gatto ti aiuta a trovare la forza, perché rompe la solitudine urbana. Conrad Lorenz. Quanto ci hanno aiutato gli animali domestici e le piante d'appartamento nei mesi di lockdown? Ben trovati a Giardino Segreto. Oggi a queste due salvifiche compagnie dedichiamo la puntata, perché vi farò tra poco riascoltare la direttrice del centro antiveleni dell'ospedale Niguarda di Milano, che il 26 gennaio scorso ci ha spiegato come far convivere in sicurezza piante e pets, considerando che alcuni vegetali, lo sappiamo, possono rivelarsi tossici se ingeriti. Subito vi do tutti i buoni motivi per riempire la casa di verde anche in presenza di cani e gatti, perché le piante fanno bene anche a loro. Bellezza delle piante. I soli esseri viventi in questo universo che non producono rumore né rifiuti. Mario Andrea Rigoni. Da questo punto di vista voglio subito scansare ogni equivoco, perché qualche settimana fa sono apparse delle notizie in cui si definivano bufale o fake news quelle secondo le quali le piante da sole sono in grado di purificare gli ambienti indoor. Le notizie citavano gli esperimenti di due ricercatori della Drexel University di Filadelfia, i quali hanno certificato che le piante da sole ben poco possono fare per depurare l'aria di casa nostra, perché ce ne vorrebbero tantissime, da 10 a 1000 per metro quadrato, se lasciassimo fare tutto a loro. Per purificare davvero gli ambienti indoor, affermano gli scienziati, ma lo dice anche il buonsenso, oltre alle piante occorre rimuovere le fonti di inquinamento, aprire spesso le finestre o, se possibile, installare un impianto di depurazione dell'aria. Al Giardino Segreto abbiamo più di una volta sponsorizzato, e lo faremo anche oggi, le piante da interno, perché senz'altro fanno bene. Certo è che mai ci siamo sognati di affermare che sono la soluzione ad ogni problema. Lo stesso per l'esterno. Piantare nuovi alberi in città è tra le cose migliori che si possa fare. Vero è, come abbiamo avuto modo di spiegare al Giardino Segreto, che se dovessimo lasciar fare tutto a loro, se ne dovrebbero piantare miliardi più che milioni. Dunque, parallelamente, dobbiamo deciderci a ridurre le fonti di inquinamento e le emissioni di CO2. Detto questo, piantare nuovi alberi in città e circondarci in casa di piante non può farci che bene, come ci conferma un'esperta in materia, Rita Baraldi, agronoma, ricercatrice all'Istituto di Bioeconomia del CNR, il Consiglio Nazionale Ricerche di Bologna. Che le piante producono dei benefici anche dal punto di vista della salute umana è dimostrato non certo da me, che sono un'agronoma, ma con studi che hanno fatto nel settore scientifico medico, in cui hanno mostrato, in particolare all'esterno ovviamente, quanto le piante possono abbattere l'inquinamento atmosferico e quindi anche produrre benefici dal punto di vista della salute umana, in particolare tutti i problemi legati all'apparato respiratorio cardiocircolatorio. Quindi queste sono sperimentazioni che fanno i medici, di cui io prendo atto naturalmente, perché sono scientificamente provati. Per quanto riguarda le piante in ambiente chiuso e quindi nelle nostre case, è abbastanza ovvio che non possono le piante né in ambienti indoor né outdoor, quindi neanche all'esterno, poter, come dire, mitigare completamente l'inquinamento antropogenico, perché anche nelle case l'inquinamento che noi abbiamo è l'inquinamento antropogenico, sono le colle dei pavimenti, sono i prodotti di pulizia che usiamo per pulire le nostre case, se fumiamo in casa, il riscaldamento, sono tante attività che possono portare alla formazione di inquinamento antropogenico. E che le piante non possono combattere da sole. No, nessuno, almeno né io né tantomeno altri miei colleghi che hanno lavorato su questo argomento, hanno mai detto che le piante da sole possono porre rimedio ai danni che facciamo noi con le nostre attività, mai. Le piante ci possono dare una mano molto importante, significativa, ma sicuramente da sole non possono completamente abbattere l'inquinamento o l'anidride carbonica presente in atmosfera. Occorrono politiche di riduzione dell'inquinamento l'inquinamento e nelle nostre case sicuramente aprire le finestre, quindi arieggiare le nostre case è fondamentale, ma questo noi lo abbiamo sempre detto che è fondamentale, ma le piante fanno parte di una strategia ecosostenibile, naturale, gradita a tutti, che secondo me va perseguita. A parità di condizioni, quindi parliamo di un appartamento che viene regolarmente areato, in cui si cerca nel possibile di limitare appunto inquinanti, dove si cerca di non fumare, ecco, a parità di condizioni le piante cosa aggiungono in un ambiente indoor? Il beneficio psicologico che le piante danno, già questo è, diciamo, è un motivo per mettere piante in un ambiente chiuso, confinato, che può essere un'azienda, un ufficio, una casa. Già questo potrebbe bastare. Già questo potrebbe bastare, perché ripeto, lo stesso motivo per cui hanno provato e stanno facendo ricerche scientifiche di piante negli ospedali, sia fuori che all'interno degli ospedali. Le piante, si guarisce più in fretta, comunque... ma non solo, mettono le piante ormai anche all'interno delle classi, imparano meglio. Sì, ecco, quindi io credo che non si tratta di fare una lotta dicendo fake news, bufale, eccetera. Si tratta di dire che sicuramente le piante non sono l'unico rimedio, ma di sicuro possono dare una mano importante, perché non solo abbattono l'inquinamento, ma aiutano anche noi a vivere meglio. Comunque abbattono anche gli inquinanti interni. Assolutamente, perché il funzionamento delle piante in un ambiente chiuso o in un ambiente aperto è lo stesso, cioè devono assorbire anidride carbonica dall'atmosfera se vogliono crescere, fare nuove foglie, altrimenti morirebbero. Mentre aprono gli stomi per assorbire l'anidride carbonica, assorbono anche altri gas che sono sprigionati nei nostri ambienti, oppure possono intercettare le polveri sottili che rimangono sulla superficie fogliare. Quindi questa è un'azione che lo fanno fisiologicamente, poi può essere più o meno sufficiente o efficace, ma questa è un'azione che le piante fanno comunemente per sopravvivere e ci aiutano. Tutte le piante, tra l'altro, perché potremmo anche fare degli esempi su cui sono basati degli esperimenti scientifici di piante che appunto sono particolarmente indicate per questo scopo, però in realtà tutte fanno quel lavoro che lei ci ha appena raccontato. Poi possiamo scegliere lo spatifillum, possiamo scegliere una felce, un ficus, tante altre piante, un poto, un'edera, un anturium, possiamo scegliere le piante anche in funzione da quello che noi preferiamo vedere nella nostra casa, no? Perché così come nell'ambiente esterno, nei nostri giardini, posso piantare un liriodendro, un tiglio, un acero, sono tutte piante ottime comunque, perché tutte hanno questa funzione fisiologica e hanno una conformazione morfologica delle foglie che aiutano ad abbattere l'inquinamento. È chiaro che siccome sono l'apparato fogliare che è quello che è principalmente attivo, più la pianta è grande, più foglie ci sono, più ha incidenza. Tra l'altro più ne abbiamo di queste piante meglio è, e nella maggior parte dei locali le mettiamo meglio è, quindi non dimentichiamo il bagno, per esempio le felci, esatto. Ma anche le orchidee possono stare in bagno. Anche le orchidee, certamente, anche le orchidee, perché vivono in un ambiente umido, quindi va benissimo, va benissimo. E non dimentichiamo la camera da letto. Esatto, le possiamo anche mettere in camera da letto, perché ci sono appunto queste piante come l'aloe, come la sansevieria, che continuano ad assorbire anidride carbonica anche di notte. Purtroppo non possiamo avere una serra in casa. Ma tanto poi le piante sono così versatili che non serve una serra per circondarsi. No, ma infatti... Dottoressa Baraldi, lei che piante ha in casa? Ah, io ho diverse piante, in particolare ho la sansevieria, a me piace particolarmente l'anturium, dei potus, spatifillum, vabbè, quando è il periodo la stella di Natale, dei ficus, ma ne ho diverse piante in casa, insomma, non sempre sono bravissima nel mantenimento, nonostante io sia laureata in agraria, ma insomma... Davvero? Anche voi agronomi fallite? Anche noi agronomi falliamo in casa, all'esterno no. In casa a volte molto dipende anche in effetti dalla pianta che una persona compra. Se ha un buon apparato radicale, se è una bella pianta robusta, allora, e se noi la riusciamo a tenere in un ambiente particolarmente illuminato, allora è molto più facile. È che purtroppo in tante case della gran luce, in particolare durante i mesi invernali, non si ha, e quindi o si mettono tutte le piante attaccate appunto alle nostre finestre, oppure comunque un pochino le piante d'inverno soffrono, tant'è vero che quando poi le portiamo fuori in primavera riesplodono, no? Quindi ci vuole ancora un'accortezza in più per riuscire ad essere dei bravi giardinieri indoor. Sì, ci vuole un'accortezza in più e ci vuole, secondo me, molta passione, molto amore, perché appunto, come succede a tutte, magari le prime volte non si riesce a far sopravvivere bene una pianta, ma poi la si comincia a conoscere, perché è vero, no, che si conosce la pianta, perché se la si osserva e si fanno delle prove, si riesce a capire anche di che cosa ha bisogno quella pianta, perché è vero, i giardinieri, ma anche noi agronomi lo diciamo, non so quanta acqua dare, quando dare, la luce, però molto dipende dal, posso dire, dal feeling che si instaura tra noi e le piante. Beh, in fondo adottare una pianta e curarla significa poi conoscerla e amarla. Esattamente. Che diciamo così, è possibile amare gli animali anche senza avere dei pets, però chi ha un animale domestico in casa è quasi sicuro che amerà in genere gli animali, e così con le piante. Però bisogna cominciare. Facendo il primo passo. Dottoressa Baraldi, grazie per essere stata con noi. Niente, grazie a voi, e a presto allora, e piantiamo piante e teniamole anche in casa. Mai andare da un dottore le cui piante d'ufficio sono morte. Erma Bombeck. Se volete riascoltare Rita Baraldi, dovete cercare su radio24.it la puntata del Giardino Segreto andata in onda l'8 dicembre scorso. Tra poco, invece, arrivano i consigli che tutti gli amanti di piante pets aspettano, ovvero come far convivere in casa animali e vegetali senza rischi. A tra poco. Il giardino segreto. Uno crede di portare fuori il cane a fare pipì mezzogiorno e sera. Grave errore. Sono i cani che ci invitano due volte al giorno alla meditazione. Daniel Pennac. I cani ci invitano alla meditazione e ci amano incondizionatamente. I gatti ci rilassano e ci divertono. Averli in casa è un toccasana, così come circondarsi di piante che però, in alcuni casi, si rivelano tossiche se mangiate. Come conciliare la compagnia di piante e animali domestici in casa? Più di un'ascoltatrice mi ha scritto a riguardo a ilgiardinosegreto@radio24.it. Le risposte su piante pets arrivano da una grande esperta in materia, Franca D'Avanzo, direttrice del Centro Antiveleni dell'ospedale Niguarda di Milano. Buona domenica. Buona domenica anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, al Giardino Segreto naturalmente noi promuoviamo le piante, e visto anche che le piante d'appartamento sono lo strumento che hanno i cittadini, purtroppo ormai molto lontani dalla natura, per portarsela in casa questa natura. Le piante fanno bene, le piante sono belle, però le piante, come ci segnalano anche gli ascoltatori, possono essere un pericolo per un altro amore della nostra vita, che sono gli animali, i pets, gli animali domestici. E qui entra in gioco lei, dottoressa D'Avanzo, che ha davvero un'esperienza per quanto riguarda veleni e sostanze tossiche importantissima, e quindi ci può dare davvero dei consigli, dei suggerimenti per poter coltivare entrambe le nostre passioni, quella per le piante e quella per gli animali domestici. Perché in effetti molte piante diffusissime, pensiamo alla stella di Natale, della quale sono state vendute 14 milioni di esemplari soltanto nelle festività, possono essere un pericolo per cani e gatti. Ma guardi, noi tutti pensiamo che la natura sia sempre madre, però la natura potrebbe essere anche considerata non madre, nel senso che la natura ha sviluppato tutta una serie di sue prerogative per difendersi. Quindi piante e soprattutto fiori possono essere sia veicolo di bellezza ma anche veicolo di pericolosità. Quando noi portiamo in casa una pianta, portiamo in casa anche queste caratteristiche tipiche della natura. Per esempio, lei prima ha parlato della stella di Natale. Benissimo, la stella di Natale è una pianta bellissima che arrida molto bene, che attira molto soprattutto i bambini, i quali cosa fanno? Come tutti coloro che devono conoscere e sperimentare, la prima cosa che fanno, staccano le foglie. La stessa cosa fanno gli animali, vanno e morsicano le foglie. Il problema è che le foglie e quello rosso che sembra essere il fiore, di fatto è la foglia, contengono un lattice. Infatti quando voi lo spezzate esce un lattice. Questo lattice è ricchissimo di ossalati di calcio. Cosa sono gli ossalati di calcio? Sono delle piccole strutture aghiformi fatte proprio di ossalato di calcio, il quale non è solubile e che si infigge nelle mucose e provoca proprio quella cosa terribile che può capitare anche per esempio con il filodendro. Se voi vedete una povera bestia che ha mangiato il filodendro e non vedete immediatamente immediatamente il lattice, vi potete rendere conto di quanto male lui sta, perché incomincia a miagolare come un disperato, proprio a causa di questi ossalati di calcio. Lo spatifillum può essere la stessa cosa, la Diefenbachia può essere la stessa cosa, quindi non è detto che le piante siano, quelle che arrivano nelle nostre case, siano assolutamente sicure per chi non si sa difendere. Quindi dobbiamo fare attenzione, ma detto questo, dobbiamo rinunciare alle piante che lei ci ha citato? Assolutamente no, però bisogna, come si educano i bambini, si possono educare anche gli animali. Già i gatti, per esempio, sono degli animali molto schizzinosi, quindi difficilmente si avvicinano. Io, per esempio, ho un gatto che ama tantissimo l'aloe vera, però l'aloe vera contiene un purgante, e se questo continua a mangiare l'aloe vera, prima o poi avrà una diarrea pazzesca. È vero che non morirà, però insomma sarà una situazione un po' spiacevole sia per lui che per me. Senta, quindi, lei ci ha citato filodendro, stella di Natale, spatifillum, Diefenbachia. Quali sono le altre? Si parla sempre, ad esempio, dell'oleandro, che vabbè non è una pianta d'appartamento, ma io ce l'ho sul terrazzo, per esempio. Ma guardi, il Nerium oleander, questo è il nome scientifico dell'oleandro, è una pianta particolarmente pericolosa. Perché è pericolosa? Sia lo stelo, sia le foglie, sia i fiori. Perché? Perché contiene una sostanza che sono dei glucosidi cardioattivi che hanno la stessa tossicità della digitale. Quindi chiunque mangi l'oleandro può correre dei rischi, anche semplicemente utilizzando lo stelo per fare, per esempio, degli spiedini. Noi abbiamo avuto dei casi di intossicazione da gente che si è fatta gli spiedini utilizzando lo stelo di oleandro, cosa assolutamente impensabile. Io devo essere sincera, ho una gatta ormai da 7-8 anni, dallo stesso periodo di tempo, perché io faccio durare le piante, ho l'ortensia, ho lo spatifillum, ho tantissimi ciclamini, anche i ciclamini in qualche modo possono rappresentare un pericolo? Possono essere un pericolo anche i ciclamini. Devo dire che la mia gatta non considera minimamente queste piante e si avvicina soltanto a quelle piante che poi in realtà sono benefiche, quindi sembra avere un istinto suo da questo punto di vista. Tutti gli animali lasciati allo stato, diciamo, brado, mantengono gli istinti. Man mano che gli animali diventano animali stanziali e poi soprattutto animali d'appartamento, corrono il rischio di perdere queste loro caratteristiche. Io, per esempio, conosco dei gatti che amano tantissimo andare a leccare alcune sostanze che mai avrei pensato che potessero leccare, per esempio la canfora. Capito? Quindi bisogna stare proprio attenti, e come si educano i bambini così si possono educare anche gli animali. Intanto la prima cosa che noi dobbiamo fare è mantenere tutti i cartellini di tutte le piante che arrivano in casa, perché non è mica detto che quando voi telefonate al centro antiveleni, se non avete il nome scientifico, noi possiamo riconoscerle semplicemente dalla descrizione. No, è meglio avere il nome scientifico. Quindi, per esempio, l'atropa belladonna fa delle bellissime bacche nere, d'accordo? Beh, l'atropa belladonna è una pianta da cui si estrae l'atropina. L'atropina è una delle sostanze che può dare più problemi nei bambini, ma anche nei cani, nei gatti e in altri animali, perché stimola il sistema nervoso centrale e può addirittura provocare delle sindromi con convulsioni. Quindi bisogna sempre essere molto cauti. Però gli animali imparano molto velocemente, perché se un cane o un gatto mastica una volta sola una foglia che gli provoca qualche problema, è chiaro che quella foglia lì non la masticherà mai più, quindi reimparano rapidamente. Un bocconcino di ciclamino piuttosto che di stella di Natale, un assaggio, che cosa può provocare? Quali sono i sintomi? Un assaggino provoca immediatamente quella sintomatologia dovuta proprio agli aghi di ossalate di calcio, che incomincia a provocare salivazione, dolore, l'animale si lamenta, cerca di mettere le zampe in bocca per cercare di pulirsi anche la bocca, ovviamente non ce la fa, magari gli viene anche qualche piccola vescicola, però fortunatamente, cioè, deve mangiarne proprio una quantità cospicua perché possa avere un problema di edema della glottide, quindi di avere difficoltà respiratorie, oppure una gastroenterite grave con addirittura presenza di sangue. Deve mangiarne una grossa quantità, di solito. Il gatto poi di norma davvero assaggia un pizzico e poi rinuncia. Il cane invece? Il cane è un po' più irruento, diciamo. La sua tendenza è quella di prendere a bocca piena. Ecco, se si prende a bocca piena una bella quantità di oleandro, questo non gli fa proprio bene. Ecco. E quando noi capiamo che è il momento di rivolgerci a un centro antiveleno, comunque a degli esperti? Secondo me la cosa che uno deve sempre fare è, avendo a disposizione il nome della pianta, chiamarci oppure mandarci una foto, in modo che così noi possiamo o tranquillizzare o dire è bene che venga visto dal veterinario. Lo facciamo gratuitamente e soprattutto lo facciamo per la sicurezza non solo degli animali ma anche dei bambini. Oltretutto abbiamo anche un sito dove ci sono tutte queste informazioni, c'è proprio un opuscolo fatto da alcuni colleghi che è proprio dedicato alle piante velenose e quindi anche a quelle che sono le più comuni intossicazioni negli animali, che si può tranquillamente scaricare e avere a disposizione. Vuole darci il sito? Certo, è www.centroantiveleni.org. Il nostro punto di riferimento. Sì, perché guardi, a volte basta anche semplicemente dare una scorsa e scoprire delle cose interessanti, perché è vero che i crisantemi, per esempio, sono dei bellissimi fiori, ma è pure anche vero che dal crisantemo si estrae la piretrina, un antiparassitario. Se un cane si mangia due o tre fiori di crisantemo, insomma, magari poi incomincia a vomitare un pochettino. Le piante di ricino, i semi di ricino sono pericolosissimi. Quelle cose lì dove ci sono bambini, cani e gatti non dovrebbero esserci, perché 3 o 4 semi di ricino possono essere la dose letale per un bambino. Quindi attenzione bene. Senta, comunque su 14 milioni di stelle di Natale non credo, insomma, che queste 14 milioni di stelle abbiano intossicato i nostri animali domestici. Non è facilissimo che cani e gatti si buttino sulle nostre piante. È possibile. Possibile. E attenzione quindi, non rinunciamo alle piante, ma educhiamo i nostri animali sin dai primi tempi e vediamo anche come si comportano, perché se sono davvero molto curiosi, anche un po' incoscienti, da andare a assaggiare ogni cosa, possiamo privarci di alcune piante. Se come la mia gatta invece sono animali che si regolano benissimo, insomma, possiamo comportarci in modo diverso, sta al nostro buon senso. Soprattutto perché noi impariamo a conoscere i nostri animali, perché ci conviviamo, di conseguenza sappiamo come si comportano e come reagiscono quando arriva qualcosa di strano in casa, perché il mio gatto ama tantissimo l'erba gatta, per esempio, perché gli animali la amano così tanto, per vomitare i peli, no? Perché questa è la loro difesa. Poi oltretutto ho scoperto che, o bene o male, anche in giardino fanno la stessa cosa, tutte le erbe che hanno la forma lanceolata loro la prendono e se la mangiano, perché così si stimolano il vomito. Poi oltretutto l'erba gatta è quella che, per cui i gatti diventano pazzi, e la nepeta cataria, no? Perché contiene un feromone e questi vanno a strusciarsi contro, poi incominciano a fare le fuse, e devo dire che lo stesso effetto ce l'ha la valeriana. Ecco, la valeriana, se il gatto ne mangia un po' troppa, magari incomincia ad avere qualche altro problema. Quindi è sempre una questione di dose. Noi non dobbiamo dimenticare questa cosa importante, che a parità di sostanza, se la dose pericolosa è molto bassa, ne basta veramente poco per provocare dei problemi. Quindi è una questione di dose, e più l'animale è grande, più la dose può essere cospicua, più l'animale è piccolo, più la piccola dose può essere pericolosa. E tutto lì è la dose, tutto in qua. Effetti. Come è diceva già Paracelso, non mi ricordo. Il nostro amico Paracelso. È proprio sempre una questione di dose e di via di assorbimento. Equilibrio, buon senso e se è possibile un po' di conoscenza, un po' più di conoscenza su quello che sulla vita che ci circonda in questo caso. Leggete quell'opuscolo che può essere veramente interessante. centroantiveleni.org. Grazie al direttore del Centro Antiveleni dell'ospedale di Guarda, Franca D'Avanzo, per essere stata con noi. Grazie a lei. L'uomo non sa di più degli altri animali, ne sa di meno. Loro sanno quel che devono sapere, noi no. Fernando Pessoa. Ricordatevi www.centroantiveleni.org, poi cliccate su opuscoli. Un ringraziamento in regia a Roberta Frisani, a tutti, da Roberta Pellegatta, l'augurio di una bella settimana. Ci sentiamo domenica prossima. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite! Suoruba.it